nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 novembre, il sole in regione sorto alle 7.06 e tramonterà alle 16.37. Venerdì c'è luna piena e siete di nuovo all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. L'annata agraria che si sta concludendo in questi giorni non è stata avara per i coltivatori, riservando buoni raccolti e prezzi in salita, ma già si intravedono nubi all'orizzonte del prossimo anno, tra queste i prezzi dei concimi in costante crescita. Ne parliamo in apertura di puntata, analizzando anche le intenzioni di semina, per passare poi alle storie di Angelo Floramo, che oggi ci racconta di roccoli e bressane, cattedrali arboree a suo dire. La rubrica della normativa anticipa le disposizioni in materia di medicina veterinaria nelle aziende, per passare poi alla seconda puntata dedicata alle castagne, alla loro varietà, cinesi comprese. La dura vita dell'operaio nell'alveare è al centro della rubrica che dedichiamo alle api, mentre in quella degli alberi le considerazioni su come debba essere un albero per essere bello, verde e ornamentale. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Intenzioni di semina e andamento dell'annata che si sta concludendo in questi giorni. Due volte all'anno Vita nei Campi fa il punto. Lo fa con Daniele Castagna, vicepresidente di Confcooperative Regionale e della cerealicola Vieris. I prezzi in campagna, in campo, quest'anno sono andati abbastanza bene. I prezzi da gennaio in poi hanno iniziato una salita abbastanza importante, toccando punte di 700 euro per la soia a luglio e di 280-290 euro a tonnellata per il mais adesso in periodo di raccolta, quindi non possiamo sicuramente lamentarci. Stessa cosa per l'orzo frumento, con il frumento adesso a 300 euro a tonnellata e l'orzo a 260-270 euro a tonnellata, quindi prezzi molto molto interessanti. Quindi tutti a seminare cereali quest'anno, c'è un però. A questo aumento dei prezzi naturalmente corrisponde anche un aumento dei mezzi tecnici, parliamo di concimi. Per fare un esempio solo, per non perderci tanto in preamboli, l'urea oggi come oggi sarà sui 90 euro a quintale, quindi questo probabilmente spingerà la gente a seminare qualche ettaro in più di colture autunno-vernine proprio per tenere bassi i prezzi di produzione. E soprattutto soia, che ha meno bisogno di... E soprattutto soia, questo sicuramente in primavera, e la soia tra l'altro proprio come cultura di secondo raccolto seguirà sicuramente le culture autunno-vernine, quindi ci saranno, queste superfici secondo me saranno in aumento. Colture alternative, avevamo visto il girasole, il colza... Il colza, quest'anno ci sarà qualche ettaro in più perché settembre ha permesso di seminare abbastanza bene, ci sarà qualche ettaro in più. Non c'è grande fiducia perché l'anno scorso le produzioni sono state, diciamo così, molto scadenti. Il prezzo del colza è molto interessante perché adesso siamo, se non a 700 euro a tonnellata, siamo lì vicino, quindi sicuramente è interessante, quindi qualche ettaro in più è stato seminato. Il girasole quest'anno è andato bene, molto bene come produzioni, c'erano pochi ettari seminato. Quello che faremo in primavera, in questo momento, sul girasole è un'incognita un po', non saprei dire. Ecco. Foraggere non pervenute? Formaggere non pervenute, restano quelle in filiera, diciamo così, con le stalle, qualche ettaro in più che è dovuto alla questione green, per cui alcune aziende invece di fare la soia green hanno fatto la medica green proprio per rispettare le normative della PAC. Soia e mais sono in bilanciamento oppure è inarrestabile l'avanzamento della soia? Quest'anno sicuramente la soia era nettamente superiore come superficie al mais. È inarrestabile in queste condizioni, soprattutto tenendo conto della siccità, tenendo conto del fatto che in una situazione di siccità è più facile fare soia che non mais con i costi che ci sono nell'irrigazione, specialmente dove si fanno irrigazioni di soccorso. E c'è una polemica in questi giorni sul prezzo del pan, che qualcuno dice sia cresciuto causa la crescita del costo del frumento, è così? Non è proprio così, perché il frumento è a 30 euro a quintale, il pan è a 400 mediamente, o anche di più. Vuol dire che il prezzo del frumento non è neanche il 10% del prezzo del pane. Che poi il pane aumenti perché ci sono gli aumenti del costo dell'energia e di altre cose è una cosa, ma dire che aumenta perché è aumentato il frumento, anche no. Musica. Vere e proprie cattedrali arboree punteggiano ancora il paesaggio friulano. Sono i roccoli e le bressane, che al di là della loro funzione originaria ormai persa, rimandano delle condizioni di vita connesse con il vivere in campagna, come ci ricorda Angelo Floramo in questa Storia friulana. Si tratta di strutture vegetali meravigliose, cresciute nei secoli come parte integrante del paesaggio e tutelate in Friuli come occorrenze del patrimonio culturale regionale. Sono opere di ingegneria arborea e le loro architetture sembrano disegnate da un visionario artista rinascimentale, capace di giocare con la meraviglia di un bosco addomesticato e ingentilito per regalare piacevolezza alla vista. La radura che si apre nel cuore di questa trappola delle meraviglie veniva tradizionalmente piantumata ad alberi da frutto, ciliegi, sorbi, pruni e rose canine, il cui scopo era quello di attirare gli uccelli nel folto della vegetazione, dove erano state occultate anche le gabbie con gli esemplari da richiamo. Spesso il roccolatore diventava un virtuoso chioccolador, un imitatore perfetto dei versi prodotti dagli uccelli. L'uccellagione è stata per secoli una risorsa alimentare imprescindibile per le genti di campagna. Dietro a tanta bellezza si nascondeva infatti un passato di miserie e di stenti, segnato da una fame atavica che doveva essere in qualche modo compensata dall'ingegno e dall'abilità di chi da sempre ha vissuto in sintonia perfetta con la natura, entro i cui cicli organizzava il proprio tempo. Molte famiglie friulane sono sopravvissute anche grazie a queste piccole cattedrali arboree. Le donne trascorrevano una giornata intera a spiumare. Delle prede, che spesso si consumavano in un solo boccone, non si buttava via nulla. Passate nelle fersorie, sfumate quando andava bene, con il vino che c'era in casa, non importa se acetoso o ammuffito, lasciavano per giorni un buon profumo tra le mura. Dal 2003, anno in cui per legge è stato vietato l'aucupio, roccoli e bressane non assolvono più alla loro funzione originaria. Oggi spesso scompaiono nell'intrico dei rami del bosco che, non più curato come un tempo, sta riprendendo possesso del paesaggio. Ne sopravvivono alcuni di meravigliosi. La bressana del Pas Carmeline, ad Ara di Tricesimo, è considerata la più grande del Friuli. A chi mai volesse godersi un itinerario a tema, il consiglio è quello di scegliere il periodo autunnale, con i suoi colori, le prime brume, il tepore offerto dalle osterie della zona. Certamente è la stagione migliore per gustare pienamente questo antico connubio tra la natura e l'uomo. Il calendario è propizio anche per visitare alcune tra le cantine più rinomate della cerchia morenica, che dopo le fatiche della vendemmia offrono assaggi di vini che possono diventare memorabili. Novità in arrivo per gli allevatori in fatto di trattamenti farmacologici agli animali. Vediamo di cosa si tratta con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Partiamo dal fatto che da qualche anno il Ministero della Salute ha istituito un sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza che prevede la completa digitalizzazione e dematerializzazione della gestione dei medicinali veterinari dalla prescrizione da parte del veterinario fino alla somministrazione agli animali. Il primo passo è stato l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica, prevista dalla legge 167/2017 e diventata operativa dall'aprile del 2019. Il passo successivo, per chiudere il cerchio, è quello che riguarda gli utilizzatori finali. In pratica, che cosa succederà? A partire dal 28 gennaio 2022, gli allevatori saranno tenuti ad adottare il registro elettronico dei trattamenti veterinari, eliminando definitivamente l'attuale registro cartaceo. Questo varrà per tutte le specie allevate per produzione di alimenti e di fatto il nuovo sistema non introduce regole aggiuntive rispetto a quelle attuali. Dove possibile, infatti, recupera le informazioni da banche dati già disponibili nei sistemi informativi ministeriali. L'obiettivo, che in linea con la strategia comunitaria Farm to Fork, è anche quello di razionalizzare l'utilizzo dei farmaci con particolare riferimento agli antibiotici. E nell'immediato che cosa devono fare gli allevatori? Se non hanno già provveduto, gli interessati sono invitati a registrarsi all'interno del portale www.vetinfo.it utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi oppure il codice personale SPID, che è ora obbligatorio per l'accesso a tutti i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Successivamente, la prima operazione da fare sarà quella di registrare le rimanenze dei farmaci veterinari presenti in magazzino. Questa operazione può essere eseguita un'unica volta ed è irreversibile. Pertanto, l'allineamento delle rimanenze presuppone l'immediato passaggio alla registrazione informatica dei trattamenti. Sarà cosa complicata? Speriamo di no, ma come tutte le novità, qualche disagio iniziale da mettere in conto. Comunque, per agevolare gli allevatori in questo passaggio delicato, i servizi veterinari della Regione Friuli Venezia Giulia hanno organizzato una specifica formazione che si svolgerà in modalità videoconferenza il prossimo 2 dicembre dalle ore 14 alle 18. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un modulo che può essere richiesto al proprio veterinario o presso gli uffici delle organizzazioni in categoria. Secondo contributo del professor Raffaele Testolin dedicato alle castagne, con una carrellata tra le più famose, cinesi comprese. In Friuli ci sono prevalentemente castagne, famose come quelle delle valli del Natisone, ma sempre castagne da cucinare lesse. L'unico marrone friulano descritto in letteratura è il marrone di Vito D'Asio. Tuttavia, Michele Fabbro, un bravo tecnico dell'ERSA e figlio d'arte, ha trovato con l'aiuto di qualche anziano esperto delle interessanti piante di marroni nascoste nelle valli del Natisone e nelle colline del Pordenonese. Le ha descritte e moltiplicate, saranno presto disponibili. Se la cosa vi può interessare, telefonate all'ERSA di Pozzuolo. Se poi siete affezionati alla chianalute, beh, de gustibus non est disputandum, diceva un personaggio di cui si sono perse le tracce. Per concludere sull'argomento, oltre al castagno europeo ci sono anche le castagne giapponesi, gli ibridi euro-giapponesi e le castagne cinesi. Ci sarebbero anche i castagni americani, ma il frutto è talmente insignificante che non viene raccolto, si usa solo il legno. Gli ibridi di castagno euro-giapponese sono stati creati dai francesi qualche decina di anni fa. Sono coltivate anche da noi, in Piemonte, ma anche nelle valli. Producono dei bellissimi marroni, molto più grossi dei nostri, le piante entrano rapidamente in produzione e sono meno sensibili al mal dell'inchiostro. Il seme è buono, però, permettetemi, avendo vagabondato per la Cina per lavoro, di tessere l'elogio delle castagne cinesi. Sono di gran lunga le migliori al mondo. Sono di medie dimensioni, sono dolci e l'Italia ne acquista molte anche per produrre i marron glacé. Si prestano bene anche per fare le caldarroste. Le caldarroste cinesi le trovate anche d'estate in alcune città italiane, per esempio a Roma, nei pressi di Via Nazionale. Sono eccezionali, più buone delle nostre, ma non voglio inimicarmi gli amici friulani che mi seguono la domenica su Vita nei Campi. Castagne e marroni si possono conservare in congelatore sia crudi che arrostiti. La zuppa di porcini e caldarroste è un piatto invernale che scalda lo stomaco e mette allegria. Roberto Zotter lo sa e potrebbe dirvi come farla. Dopo il ritratto della Perugina, oggi Moreno Greardi ci parla della dura e breve vita dell'ape operaia. Le api operaie nascono da uova fecondate. Dopo 3 giorni dalla deposizione, dall'uovo fuoriesce la larva, che per i primi 3 giorni di vita viene nutrita dalle api con pappa reale e a partire dal 4º giorno con una miscela di polline e miele. L'opercolatura, la chiusura della cella, avviene al 7º giorno. Dopo l'opercolatura, la larva fila il bozzolo e si trasforma in pupa. A 21 giorni dalla deposizione dell'uovo si ha lo sfarfallamento dell'ape adulta. La durata della vita di un'ape operaia è molto variabile. Si va dai 30 a 40 giorni durante la stagione attiva ai 6 mesi delle api svernanti. Una caratteristica delle operaie è il polietismo determinato dall'età, ovvero il cambiamento di comportamento legato all'avanzare dell'età. Appena nata, un'ape operaia si dedica per i primi 3 giorni di vita alla pulizia delle celle che accoglieranno le uova, a rivestirle con una resina, la propoli, che ha azione batteriostatica. Dal 4º giorno diventa un'ape nutrice, api che hanno il compito di nutrire la covata. inizialmente occupandosi delle larve più anziane, e dal momento in cui entrano in funzione le ghiandole ipofaringee dal quinto giorno al quattordicesimo giorno, responsabili della produzione di pappa reale, si occupano delle larve con meno di 3 giorni di vita. Dal decimo al sedicesimo giorno le ghiandole responsabili della produzione della cera sono in funzione e quindi le api si dedicano alla lavorazione di questo secreto ghiandolare, costruendo e riparando i favi. In seguito, per pochi giorni, si dedicano al ricevimento e all'immagazzinamento di polline e nettare, alla difesa della comunità api guardiane e alla pulizia dell'alveare, api spazzine. In questo periodo iniziano ad effettuare anche i primi voli di orientamento per abituarsi alla futura attività all'esterno e imparare a riconoscere la posizione dell'alveare. Dal 20° giorno di età diventa un'ape bottinatrice e si dedicherà all'attività di raccolta del cibo, nettare e polline e dell'acqua. Questa attività la impegnerà per 10-20 giorni, dopodiché l'ape morirà. Nelle aree dove viene allevata la covata, indipendentemente dalla temperatura esterna, le api mantengono sempre una temperatura intorno ai 34-35 gradi. Ciò è possibile nei periodi freddi, ingerendo miele e mettendo in azione i muscoli toracici. Il calore viene quindi prodotto mediante combustione di sostanze zuccherine nella muscolatura toracica. Nei periodi caldi l'abbassamento della temperatura viene ottenuto mediante ventilazione, agitando le ali e facendo evaporare delle goccioline di acqua depositata nelle celle. Seguendo i capitoli del libro Amici alberi, semplici regole per trattarli bene, scritto da Roberto Barocchi, Aldo Cavani e Giorgio Valvason, tre professionisti del settore della nostra regione, oggi con l'architetto Barocchi parliamo. Gli alberi devono essere belli. Nel vostro libro c'è scritto, devono essere belli, ma necessariamente? Ma gli alberi ornamentali si chiamano così perché hanno il compito di ornare, cioè di abbellire, oltre a regalarci molte altre cose buone. Per essere belli non devono essere capitozzati, cioè potati pesantemente, lasciando solo il tronco o dei moncherini dei rami principali. E gli alberi capitozzati non devono essere spollonati, non si devono cioè tagliare tutti i getti che crescono rapidamente nel disperato sforzo di ricostituire l'apparato fogliare. Gli alberi capitozzati e spollonati sono brutti. Così come non sono belli gli alberi piantati troppo vicini fra loro, per cui incrociano le loro chiome che così riceveranno meno luce, e non belli sono gli alberi danneggiati dalle automobili parcheggiate. Se poi un albero è brutto, malandato, non è un delitto abbatterlo e collocare al suo posto un albero più bello che, se curato, crescerà sano e con una bella chioma. Esistono regole su come trattare gli alberi, allora? Ma alcuni comuni, pochi in verità, sono dotati di un regolamento del verde urbano che non sempre è rispettato. Inoltre i regolamenti riguardano in genere più il verde pubblico, limitandosi a poche regole per il verde privato, come ad esempio l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per abbattere un albero privato di grandi dimensioni. Nel regolamento del verde di Trieste troviamo la seguente amenità. All'articolo 44 è detto: un albero correttamente messo a dimora e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. Ma poi è aggiunto, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ad assumere carattere ordinario o straordinario. Insomma, il combinato disposto delle due frasi ci porta a concludere che nel comune di Trieste tutti gli alberi, dovendo essere potati, sono malati. E con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais, con umidità 14%, è stato quotato tra 26,80 e 27 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 26,10 e 26,50. Quello distico si quota tra 22,50 e 25 euro al quintale. Frumento tra 30,30 e 30,80. E la soia tra 59,80 e 60,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 8,90 euro e la soia di 19,80 il quintale. Discrete contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi diversificati. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 0,80 e 0,90 euro al chilogrammo IVA esclusa. Le zucchine tra 1,80 e 2,20. Le melanzane tonde tra 1,20, i cetrioli tra 1,20 e 1,50, i pomodori in grappolo e i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,80 e 2,30, la scarola riccia tra 2,50 e 2,80, il radicchio rosso tondo tra 1 e 1,20, quello di Treviso precoce da 1,20 a 1,50, le arance navel da 0,80 a 1,30, l'uva tra 1,20 e 2 euro, le castagne da 3,30 a 5,50, le clementine tra 0,80 a 1,80, i melograni italiani tra 1,50 a 2 euro e i kiwi tra 2,80 e 3,50. Nel settore della pesca, a causa condizioni meteo non favorevoli, c'è poco prodotto e i prezzi hanno segnato forti incrementi. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 16 a 29 euro il chilo IVA esclusa. Le sogliole da 11 a 25, le canocce da 8 a 7, le ombrine da 18 a 35, le orate da 6 a 22, le passere da 14 a 16, i laterini da 8 a 10, i calamari e i calamaretti da 20 a 22 e le seppie da 13 a 16 euro il chilogrammo. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnalano scambi attivi con prezzi in ripresa. I poli a terra vengono pagati tra 1,19 e 1,21 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,61 e 2,65, le faraone tra 2,72 e 2,82, i tacchini maschi tra 1,50 e 1,52, le femmine da 3 a 16 a 3,20, i coniglioti di 1,5 kg tra 2,70 e 2,76 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,30 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'Osmer diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. L'autunno si è presentato finora con molte giornate soleggiate sulla regione. Dal 1 settembre abbiamo registrato addirittura 46 giornate di sole, ben 14 in più della media degli ultimi 30 anni, e le piogge si sono concentrate solo in poche giornate. Nel rispetto della tradizione, il giorno di San Martino le temperature sono state più miti dei giorni precedenti e di quelli successivi. In diverse località si sono toccati i 20 gradi, valori decisamente elevati per il periodo, pari solo al 2005. Oggi e nei prossimi giorni una depressione interesserà l'Europa centro-occidentale, favorendo a tratti l'afflusso di masse d'aria umide da sud-est in quota, mentre nei bassi strati saranno prevalenti le correnti da est-nord-est. Dopo le piogge di oggi, probabilmente più abbondanti sulle zone occidentali, domani avremo un miglioramento con cielo variabile, probabilmente più soleggiato sulle zone orientali. Martedì e mercoledì mattina è atteso invece un nuovo peggioramento, con cielo in prevalenza coperto, piogge sparse ad est, più abbondanti ad ovest. La neve arriverà solo sulle vette, oltre i 1800-2000 metri di quota circa, in quanto le temperature rimarranno abbastanza miti, con valori minimi di 10-12 gradi su pianura e costa e massime fra i 14 e i 16 gradi. Sulla costa e sulle zone orientali, da stasera e almeno fino a mercoledì, soffierà bora moderata, come sempre più sostenuta a Trieste, dove le raffiche probabilmente arriveranno anche attorno agli 80 km orari. Nella seconda parte della settimana è previsto il rinforzo dell'anticiclone sull'Europa orientale, con un miglioramento del tempo, probabilmente sempre accompagnato da bora moderata o borino sulla costa, aria piuttosto secca e temperature in lieve calo nei valori minimi. L'evoluzione per il prossimo fine settimana non è al momento caratterizzata da particolari cambiamenti, ma come suggeriamo sempre, è bene seguire giorno per giorno l'emissione delle previsioni. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. A San Martino al frumento al campo, dal mulin, ovvero San Martino, l'11 novembre, il frumento deve essere in campo, seminato, o nel mulino, per macinare. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.